e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti. Allora, domani il Sole 24 Ore ospita la 25esima edizione di Telefisco, il convegno dell'Esperto Risponde, che è una rubrica storica, per chi non lo sapesse, del Sole 24 Ore, dedicata a tutti i chiarimenti su tutte le novità fiscali e normative da parte dei professionisti che gravitano attorno al mondo sole. Questo convegno, quello di domani, alla sua 25esima edizione, è dedicato come sempre alle novità tributarie dell'anno, con la partecipazione degli esperti del Sole 24 Ore e poi tutti i chiarimenti che arriveranno da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ci sono 13 città principali collegate e molte altre da tutta Italia, e da queste sedi si potranno seguire in diretta le indicazioni e i commenti sulla legge di stabilità, le norme di attuazione della delega fiscale, che saranno come sempre al centro della manifestazione. Allora, Cuore Denari oggi vi anticipa l'evento approfondendo uno dei temi che saranno affrontati appunto domani. Abbiamo scelto un tema che abbiamo ritenuto possa essere fra i più caldi per i nostri ascoltatori / contribuenti. Parliamo del popolo delle partite IVA e delle novità che sono arrivate con questo 2016. 800 24 00 24, il numero verde per tutte le vostre domande. Se siete partite IVA, se pensate di aprirne una in quest'anno, conoscete le regole per il cosiddetto regime dei minimi? Vi aspettiamo tra poco. E vi aspettiamo anche per la seconda parte della trasmissione. Oggi la pagina di Cuore torna ad occuparsi di celiachia. È noto che il numero delle diagnosi è in aumento, anche se gli esperti avvertono che il rischio sommerso rimane, perché non tutti i celiaci ricevono diagnosi, poiché l'intolleranza permanente al glutine può anche manifestarsi in modo subdolo e poco chiaro. Ne abbiamo parlato tante volte e torneremo a farlo. Ma c'è una novità di cui vogliamo parlarvi. I ricercatori si interrogano sulla possibilità di ridurre o abolire il rischio di sviluppo della celiachia nelle persone che hanno una predisposizione. È partito uno studio, ne parleremo nella seconda parte del programma. Se volete saperne di più, 800 24 00 24, se siete celiaci, se invece siete sensibili al glutine, se invece avete deciso autonomamente di eliminare la proteina incriminata dalla vostra dieta, diteci che cosa vi ha spinto a farlo e che risultato state ottenendo. Il mio commercialista è quello che mi salva. Il mio commercialista è quello che mi salva. Mi scordo di pagare pure l'acqua calda. Vabbè, questa non l'avevo mai sentita. Chissà che domani questa canzone non apra i lavori della 25esima edizione di Telefisco. 130 sedi collegate da tutta Italia, domani dalle 9.15 alle 17.30 per la 25esima edizione del convegno annuale organizzato dal Sole 24 Ore, che si svolgerà come sempre con la partecipazione degli esperti dell'Agenzia delle Entrate per spiegare tutte le novità fiscali del 2016 introdotte con la legge di stabilità. Allora, per chi volesse avere maggiori informazioni, trova tutto all'indirizzo www.ilsole24ore.com/, cioè la barretta di traverso, Telefisco. Da questo sito è ancora possibile iscriversi, ma è possibile farlo anche da un'apposita app di Telefisco 2016. La partecipazione è gratuita, permette di ottenere crediti formativi che sono validi per la formazione continua di questi professionisti. Quindi un'occasione per approfondire, come vi dicevo, tutte le novità della legge di stabilità. Ne sono state introdotte tantissime ed è bene che le conosciamo tutti quanti, che non le conoscono solamente i professionisti, ma anche noi contribuenti. Allora, faccio un po' fatica stamattina con la gola, come avrete capito, speriamo di portare avanti. Soccorrimi tu ogni tanto, Nicoletta. Ma certo, sono qua apposta. Allora, interverranno Erisimo a gogo. Interverranno domani mattina Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, Gerardo Longobardi, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che questa mattina abbiamo il piacere di avere anche brevemente telefonicamente con noi. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti radioascoltatori. Grazie allora per la sua partecipazione. Presidente Longobardi, stagione fiscale 2015, quali sfide per la categoria dei commercialisti? Quali sono le principali domande, le richieste di approfondimento e di confronto con le quali i commercialisti si presenteranno domani a Telefisco? Allora, sicuramente stagione fiscale 2015, che è quella passata, è sicuramente la stagione della delega fiscale che ha visto impegnato il governo, noi commercialisti, per dare una serie di suggerimenti, perché la delega venisse migliorata. Molto è stato fatto, alcune cose sono rimaste un po' al palo, Sicuramente l'attività di compliance, l'attività di dialogo con l'amministrazione finanziaria e contribuenti è una parte importante, ad esempio penso alla disciplina degli interpelli, alla questione relativa all'internazionalizzazione delle imprese. Cioè, si è fatto molto, ma si poteva fare molto e molto di più. La stagione 2016 invece, con la legge di stabilità, segna un momento nuovo, nel senso che forse è la discontinuità rispetto alle manovre degli ultimi 10 anni, rispetto ai quali appunto, anziché parlare di nuove tasse, si tenta di ridurle, e quindi c'è l'abolizione della TASI, come abbiamo visto. Per quanto riguarda in particolare invece i professionisti, c'è ed estensione anche a loro dei maxi ammortamenti sui nuovi beni strumentali, che è stata una richiesta del nostro Consiglio nazionale. La riduzione, ne ha parlato lei, al 5% dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi che avviano una nuova attività, comprese nel regime forfettario. Devo dire, ci sono delle misure che debbono sicuramente essere ancora più coraggiose per il futuro, no? Anche perché, quindi, Presidente, più che altro i contribuenti, a prescindere dall'abbattimento magari di una rosa di tasse e di imposte, si aspetterebbero anche il proseguimento del cammino sulla semplificazione, no? Abbiamo le novità della dichiarazione dei redditi precompilata, che ancora non riesce ad entrare nel vivo nella modalità in cui si vorrebbe, la fatturazione elettronica. Oggi sul Sole 24 Ore c'è anche il pezzo sull'addio agli studi di settore. Per garantire questa maggior semplificazione per i contribuenti, tutto questo è sufficiente? Allora, credo che la semplificazione sia un tema importantissimo. Non è certamente la semplificazione della fiscalità, non significa rendere banale ciò che è complesso. Semplificare non è eliminazione di vincoli o di regolamentazione. Semplificare è quello che serve, è pianificare, è realizzare un sistema chiaro, certo e coerente. Questo è quello che noi chiediamo, che abbiamo chiesto fin dal nostro congresso scorso anno a Milano, e credo che siamo sulla strada giusta. La fatturazione elettronica può essere vista come un'opportunità, debbono essere dati degli incentivi e deve essere stimolata la fatturazione elettronica. 7.30 precompilato, abbiamo detto, ci sono molti problemi sul 7.30 precompilato, ci sono stati l'anno scorso, e tanto che è stato considerato l'anno scorso come quest'anno sperimentale. Ecco, non vorrei che però le sperimentazioni venissero fatte poi divenissero strutturali, Presidente. Peraltro, visto che la ospitiamo a cuore denari, vale la pena segnalare che molti di questi problemi sulla precompilata sono legate proprio alla certificazione delle spese mediche, no? Sì, noi abbiamo fatto un tavolo, abbiamo avuto un tavolo con la presenza della dottoressa Orlandi, il Ministero, il MEF, la Ragioneria Generale dello Stato, abbiamo scritto una lettera al ministro Padoan chiedendo appunto che ad esempio il sistema tessera sanitario e le comunicazioni venissero prorogate, sono state prorogate di 9 giorni, non è che ci fa felicissimi, però sicuramente è indispensabile poter programmare, dare la possibilità a chi lavora per il fisco, come sono i commercialisti, di poter pianificare la loro attività senza arrivare sempre all'ultimo momento. E è colpa nostra, noi ce la mettiamo tutta quanta. Tra l'altro, considera che oggi il sistema l'informatizzazione dell'amministrazione finanziaria è incredibile, siamo i primi al mondo, e se siamo i primi al mondo lo possiamo dire soprattutto grazie ai commercialisti. I commercialisti hanno aiutato l'amministrazione finanziaria a essere informatizzata, ad essere la più telematica tra tutte quante le amministrazioni finanziarie del mondo, ma non c'è stato mai un esplicito riconoscimento, anche se devo dire che oggi i rapporti con l'Agenzia delle Entrate sono dei rapporti di grande dialogo e di ascolto da parte dell'Agenzia alle nostre sollecitazioni. Ottimo. Di settore. Sì, velocemente, che poi la salutiamo. Sì. Esatto, una cosa bellissima è stata la mia prima richiesta quando si è iniziato il Consiglio nazionale il 31 dicembre del 2014, è proprio l'abolizione dei studi di settore per i professionisti, è il nostro cavallo di battaglia. L'abbiamo chiesto a più riprese, abbiamo visto che anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate non era contrario a questo, mi auguro veramente che si percorra questa strada, e quindi veramente un incitamento al vice ministro Casero, con cui abbiamo lavorato moltissimo, ad andare avanti su questa strada, come ad andare avanti sulla certezza dei termini per cui noi avremmo la possibilità, chiediamo da tempo che gli applicativi software vengano messi a disposizione per tempo e gli adempimenti possano decorrere solamente 60 giorni dal momento in cui gli applicativi software dichiarativi sono posti nella disponibilità dei contribuenti sul sito dell'agenzia. Presidente, domani avrete un palco come sempre molto autorevole per rimarcare l'importanza delle vostre battaglie. Vi aspetta la 25esima edizione di Telefisco. Intanto grazie per essere stato con noi, per averci anticipato anche i contenuti delle istanze che riporterete davanti al direttore dell'Agenzia delle Entrate e alla platea dei vostri associati. Buongiorno, buona giornata e grazie. Buongiorno, molto, buon lavoro. Grazie a voi per questo giubileo di Telefisco. Grazie, bello. Grazie. Il giubileo di Telefisco. Infatti, il nostro prossimo ospite è Giampaolo Tosoni, consulente fiscale esperto sui temi fiscali e tributari del Sole 24 Ore, fra i vari esperti che domani faranno la loro presenza, la loro relazione appunto a Telefisco. Buongiorno Tosoni, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Allora, intanto è già arrivato il momento di andare a sentire cosa succede sulle strade italiane, ma come anticipavo già prima ai nostri ascoltatori, il tema che approfondiremo con Giampaolo Tosoni e quello che sarà chiamato anche ad approfondire a Telefisco domani è come dire, il punto della situazione per quei lavoratori che stanno lavorando con partita IVA o che stanno scegliendo, decidendo di farlo o meno, ma naturalmente sapete che quando si intraprende un'attività imprenditoriale, la libera iniziativa professionale, ecco, magari nei primi tempi non è che si guadagni molto, allora il fisco dà questa opportunità di avere proprio un regime fiscale avvantaggiato. Quali sono le novità di quest'anno per la platea dei cosiddetti contribuenti minimi? Ne parleremo fra qualche istante con il nostro consulente. Intanto voi, se avete delle domande su questo, potete già iniziare a prenotarle all'800 24 00 24. Ci risentiamo fra un minuto. Cuore e denari. 800 24 00 24, siete dei lavoratori che lavorano con partita IVA per scelta, per necessità? Quali sono i vostri dubbi, le vostre difficoltà dal punto di vista fiscale? State valutando se aprirla adesso perché magari avete chiuso un'esperienza professionale da lavoratore dipendente e volete darvi alla libera iniziativa? Quali elementi vi rendono ancora indecisi? Allora, con noi stamattina c'è Giampaolo Tosoni, consulente fiscale esperto sui temi fiscali per il Sole 24 Ore. Vogliamo parlare del regime dei minimi, dottor Tosoni, no? Chi è il contribuente minimo? Cosa significa dal punto di vista fiscale avere questa caratteristica? Banalmente, fatturare quanto? Sì, beh, il contribuente minimo sono le persone fisiche che svolgono un'attività di impresa o di lavoro autonomo e che non raggiungono un determinato ammontare di ricavi. Nell'attuale regime forfettario i ricavi sono indicati in una tabella proposta dalla legge di stabilità e quest'anno tra l'altro revisionata, che va ad esempio dai 45.000 euro per le produzioni alimentari ai 30.000 euro per le attività professionali, ai 30.000 euro per le altre attività di servizi. Però sotto il profilo tecnico bisogna scomporre in due il problema, perché il termine minimo di fatto viene utilizzato per i contribuenti che hanno iniziato l'attività fino al 31 dicembre 2015, avendo alle spalle un fatturato non superiore ai 30.000 euro, i quali possono usufruire di una percentuale d'imposta sostitutiva del 5%. Questo regime dei minimi lentamente sta scomparendo, nel senso che dal 2016 non è più possibile adottarlo, però chi l'ha adottato entro il 31 dicembre 2015 lo potrà ancora applicare per 5 anni, perché ha la durata di 5 anni o addirittura fino al 35esimo anno di età. Invece chi nasce quest'anno adotta il regime forfettario. Ecco, quindi allora il regime dei minimi verrà sostituito dal cosiddetto regime forfettario. Quali sono 2016, sì. Esatto, fondamentalmente le due differenze fra i due regimi, Tosoni. Allora, le differenze sono sottili, ma indubbiamente ce ne sono. Il regime dei minimi, quello che sta scomparendo, il reddito si determina facendo la differenza tra i ricavi, i compensi percepiti e i costi sostenuti, e sulla differenza si applica l'imposta sostitutiva del 5%. Invece il regime forfettario non contano i costi che si sostengono, perché si parte dai ricavi, che come dicevo prima devono essere in misura non superiore a quelli stabiliti dalla legge, e il reddito viene determinato determinato con un coefficiente di redditività che stabilisce sempre la legge. Ad esempio, un professionista il reddito è pari al 78%, nelle altre attività economiche tipo gli artigiani eccetera il 67%, e poi l'imposta sostitutiva è normalmente del 15%, quindi abbiamo una montata di ricavi che si moltiplica per una percentuale forfettaria che diventa il reddito, indipendentemente quindi dai costi sostenuti. Sulla differenza si tolgono i contributi previdenziali, che sono sempre deducibili, questo qui per entrambe le categorie di soggetti, e quindi poi l'imposta sostitutiva del 15%. Dovrei anche aggiungere che i forfettari che nascono da quest'anno, che abbiano però un passato alle spalle senza aver fatto un'attività da minimo, bravissima, e cioè non avere svolto la stessa attività negli ultimi 3 anni, oppure l'attività non deve proseguire quella già svolta come dipendente, in questo caso nei primi 5 anni hanno la determinazione del reddito, è quella che ho succintamente ho ricordato, però l'imposta sostitutiva per i primi 5 anni diventa del 5%, quindi di fatto il legislatore ha voluto un po' unificare i criteri di tassazione nelle start-up, cioè dei giovani in particolare, certo, che iniziano l'attività, in modo che non siano appesantiti nei primi 5 anni da un carico tributario. Ecco, quindi Tosoni, possiamo proprio dire che anche se non si chiama più minimo, oggi è forfettario, cambiano un po' le condizioni appunto per accedervi a questo regime comunque avvantaggiato, lo possiamo definire così in termini generali. Sì, è avvantaggiato. Possiamo dire che rimane un regime fiscale ideale per chi avvia una piccola attività imprenditoriale o professionale, oppure per chi si trova nella condizione di limitare le dimensioni della propria attività professionale. Ma certamente, cioè il giovane o anche il pensionato, io penso al medico che va in pensione, perché questo regime non ha di fatto delle controindicazioni, è chiaro che richiede questo regime forfettario determinate condizioni di accesso. Uno l'ho già detta ripetutamente, che l'aumento non bisogna superare la montata dei ricavi stabiliti dalla legge, che quest'anno peraltro è aumentato di 10.000 euro. Poi bisogna, quindi da 30.000 a 40.000? I professionisti 30.000, no? Avevo già dato il dato aggiornato. Sì. Non bisogna avere dipendenti se non per un costo superiore a 5.000 euro e beni strumentali non superiori a 20.000 euro. Quest'anno poi la novità è che questo regime può coesistere con il lavoro dipendente o di pensione qualora il lavoro dipendente non sia superiore a 30.000 euro. Nell'anno precedente peraltro viene fotografato. Mm-hmm. Cosa vuol dire questo? Che sia un giovane che ovviamente alle spalle ha l'attività di studente, sia anche un pensionato, un medico che va in pensione, un dirigente industriale che va in pensione, che ovviamente abbia una pensione inferiore ai 30.000 euro, può aprire la partita IVA e fare un minimo di attività professionale, tra l'altro con l'agevolazione che le imposte sono soddisfatte pagando soltanto il 15% di imposta sostitutiva, o meglio ancora il 5%, se appunto alle spalle ha quelle condizioni di non esercizio dell'attività. Certo, la ringrazio. Quindi diciamo proprio che è ideale per un giovane o anche un pensionato che vuole aprire l'attività. La ringrazio per averci fatto anche degli esempi pratici, così ci caliamo anche nella realtà, insomma, dei nostri ascoltatori e rendiamo più comprensibili anche questi argomenti, che non è che siano sempre di facilissima portata per tutti. Sentiamo cosa vuole sapere da noi Filippo da Ternia, cui diamo il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per avermi chiamato innanzitutto. Senta, io volevo porre un quesito, io sono titolare di una partita IVA. Sì. Pronto. Io sono stato già, la partita IVA l'ho aperta nel 95, io sono già stato iscritto al regime dei minimi per 5 anni, dopo sono stato obbligato a uscire. Cioè, volevo sapere oggi io, che ancora sono titolare partita IVA, posso rientrare nei minimi? Che non esisteranno più da quest'anno, no Tosoni, ma avremo il forfettario. Il forfettario. Quel che sia, insomma. Tosoni. Cosa può fare il nostro Filippo? Certo, certo. Allora, certamente potrà adottare dal 2016 il regime forfettario se lo scorso anno, che era il 2015, i suoi ricavi o compensi non hanno superato il limite di 45.000. L'ascoltatore non ci ha detto che attività svolge. Esatto, lo abbiamo perché ancora il nostro amico, il nostro Filippo? Libero professionista. Io. Perfetto, quindi se nel 2015, chiedo scusa, non ha superato l'ammontare dei ricavi di 30.000 euro, quest'anno è ammesso al regime forfettario, che vuol dire che lei, quando percepisce i suoi compensi, fa una ricevuta che non è fattura, perché non si applica l'IVA, non subisce la ritenuta d'acconto, che è un'altra agevolazione, alla fine dell'anno somma i suoi compensi percepiti, moltiplica per 78%, che è appunto la percentuale di redditività, prima toglie poi i contributi previdenziali che lei paga alla cassa di previdenza, se è iscritto alla cassa di previdenza, e sulla differenza pagherà il 15% di imposta sostitutiva. Quindi il signore al telefono può applicare certamente il regime forfettario, non può applicare il 5% perché non ha un passato di inattività, perché lui giustamente la partita IVA ce l'ha già aperta, quindi non entra nell'agevolazione ulteriore del 5% che hanno le start-up, quelli che iniziano l'attività ovviamente, certo, da quest'anno, mentre il regime forfettario gli appartiene in virtù del fatto che non ha superato nell'anno 2015 l'importo di 30.000 euro di compensi. Senta Tosoni, quando in passato abbiamo fatto altre trasmissioni sul regime dei minimi, naturalmente noi auspicavamo sempre per tutti coloro che fossero sotto questo regime fiscale che le cose andassero molto bene per la loro, certo, attività, e che fossero in qualche modo ad un certo punto dell'anno costretti a passare al cosiddetto regime ordinario perché le cose andassero molto bene. È l'augurio che facciamo tutti. Esattamente. Per il forfettario funziona nella stessa modalità, perché quest'anno decide di optare per questo regime fiscale avvantaggiato perché intraprende una nuova attività professionale o di imprenditoriale, ma improvvisamente quest'anno il PIL ricomincia a correre, le cose vanno molto bene, il fatturato, i ricavi esplodono naturalmente e si trova nella condizione di dover fare appunto questo passaggio. Si può fare con le stesse modalità con cui si faceva prima? Diciamo che questa situazione, che è frequente, anzi è auspicabile, nel regime forfettario è molto più semplice, per fortuna. Succede questo: l'appartenenza al regime forfettario, anche prendendo il caso del signor Filippo, bisogna fotografare l'anno precedente. Se l'anno precedente io non ho superato i 30.000 euro, nell'anno 2000 e successivo, 2016, io applicherò il regime forfettario indipendentemente dall'ammontare dei ricavi che realizzo. Potrebbero andarmi bene le cose, magari fare 100.000 euro di fatturato, di compensi nel 2016, e comunque nel 2016 applicherò comunque il regime forfettario, cioè il mio reddito sarà pari come professionista al 78%, al di là dei costi che io sostengo. Ovviamente nel 2016, avendo superato il limite che la legge prevede, che è di 30.000 euro, nel 2017 ritornerò in regime contabile ordinario, cioè quello dei professionisti, che si può chiamare ordinario o semplificato, comunque un regime contabile di fatto che appartenga, che è previsto per i professionisti. Quindi non potrò più applicare il regime forfettario e farò il reddito in base alla differenza costi e ricavi e non avrò la percentuale di imposta sostitutiva al 15%. Mentre nel 2016, se l'anno precedente non ho superato il limite di 30.000 euro, anche se vado oltre questo importo, applicherò comunque l'imposta sostitutiva con il 15% e il reddito lo determino con la percentuale del 78%. Mi verrebbe da dire tutto chiaro, invece mi viene da dire meglio che ci facciamo assistere da un buon commercialista ad ognuno il suo tesone, naturalmente. Io faccio, magari io intraprendo un'attività da libera professionista giornalista, ma è meglio che per le questioni fiscali mi assistiate voi, perché comunque il mondo rimane sempre. Ne commentiamo questo. Cuore e denari. E allora anticipiamo oggi a Cuore Denari alcuni dei contenuti che verranno approfonditi domani a Telefisco, il convegno annuale organizzato dal Sole 24 Ore, pensate, la 25esima edizione, quindi insomma ci sarà anche un bel qualche coppa di champagne, speriamo, per questo evento. Dovremo scendere, no, Nicoletta, un attimo per farci vedere, che ne dici, dire la nostra? Direi di sì. Sul tema. E la partecipazione naturalmente come sempre sarà ricchissima di esperti e dell'Agenzia delle Entrate, ma anche del mondo fiscale, per spiegare tutte le novità fiscali del 2016 introdotte con la legge di stabilità e non solo. 130 come sempre le sedi collegate da tutta Italia, è ancora possibile iscriversi, potete andare sul sito www.ilsole24ore.com/telefisco, c'è anche una app Telefisco, quindi un'applicazione, e poi vi ricordo che anche Radio 24 presiderà l'evento e darà le risposte alle domande degli ascoltatori al termine dei principali giornali radio durante il Radio Day, che appunto dedicherà domani appositamente a Telefisco. Noi questa mattina abbiamo estrapolato un argomento, tra i tanti che verranno approfonditi domani parliamo del popolo delle partite IVA, di chi ha una piccola attività professionale o imprenditoriale e pertanto appunto può godere per un determinato periodo di tempo di un regime fiscale avvantaggiato. Fino allo scorso anno abbiamo imparato a chiamarlo il regime dei minimi, da quest'anno invece si chiamerà regime forfettario. Ci sono comunque anche delle novità per chi aderisce a questo regime fiscale, ce le sta spiegando tutte stamattina Giampaolo Tosoni, consulente fiscale, esperto di temi fiscali e tributari per il Sole 24 Ore. Lei domani, Tosoni, a Telefisco parlerà di questo, ma non solo, immagino. Sì, ci sono altri temi che mi appartengono, le numerose novità fiscali nel settore agricolo, che sono tutte novità peraltro agevolative, e poi un'altra agevolazione è quella degli imbullonati, cioè degli impianti fissi nei fabbricati industriali, che non saranno più parte nel calcolo della rendita catastale. Anche questa è una cosa importante, perché di fatto diminuirà l'IMU su questi fabbricati industriali. Mm. Il settore agricolo peraltro è molto interessante, perché per esempio l'ambito agroalimentare, che va di gran moda da molti anni a questa parte, è anche un territorio, come dire, economico, che viene scelto anche per chi intraprende la libera attività appunto imprenditoriale. Tosoni, anche in questo caso, per chi opta per questo campo può optare anche per il regime fiscale forfettario? No, chi svolge un'attività agricola non c'entra, per il regime forfettario è considerato valido soltanto per le attività di lavoro autonomo e di impresa, ma di impresa intesa impresa commerciale. Però va detto che il settore agricolo ha già delle agevolazioni fiscali molto importanti, nel senso che il reddito viene determinato su base catastale e non su base effettiva, per cui insomma ha già le sue agevolazioni fiscali. Poi proprio quest'anno, cosa di cui ne parleremo domani, diremo che nel settore agricolo viene abolita l'IRAP, viene abolita l'IMU per molti imprenditori che hanno una qualifica professionale, per cui è già un sistema fiscale avvantaggiato, non ha bisogno di ulteriori incentivi fiscali perché ne ha già di suo a regime, quindi va bene così. Senta, Elena su Twitter, tornando invece al nostro tema originario, quindi regime forfettario, quando parliamo del reddito necessario per poter avere questa, chiamiamolo così, agevolazione fiscale, parliamo di reddito netto lordo, dottor Tosoni? No. Il limite di accesso riguarda i ricavi o compensi, ovviamente lordi. Perfetto. Quindi non è la differenza, il reddito è la differenza tra i ricavi e i costi. Che nel forfettario non si fa la differenza tra i ricavi e i costi, ma si fa l'ammontare dei ricavi per una percentuale di redditività stabilita dalla legge, come dicevo più volte, i professionisti 78%, ma il limite di accesso è determinato sui ricavi lordi o compensi lordi, quindi questo è misura il limite di accesso. Certo. Senta, prima, io tra l'altro avevo prima una risposta in sospeso che poi lei ha... brutalmente interrotto e tornato al giornale radio, sì. Esatto, no, volevo dire il discorso della complessità o meno di questa normativa. Ah, sì, infatti. Bisogna scomporre il problema in due. È chiaro che l'aspetto normativo, lo studio di queste norme di legge, che sono indubbiamente sempre complicate, per la individuazione e la interpretazione serve un po' la mano dell'esperto, cioè di chi ha dimestichezza con l'interpretazione delle norme fiscali. Ma una volta inquadrato il contribuente minimo, il giovane che apre da questa attività, in effetti gli adempimenti sono molto pochi, perché di fatto deve soltanto fare le ricevute, come si dice, certificare i corrispettivi. Allora, guardi Tosoni, la fermo lì perché c'è Fabrizio da Roma che probabilmente ci chiedeva proprio un aiuto in questo senso. Fabrizio, benvenuto. Prego. Sì, buongiorno. Sempre sul discorso dell'anno precedente, di questi famosi 30.000 euro come limite per poter accedere poi al forfettario. La data del pagamento delle eventuali fatture emesse, delle fatture emesse l'anno precedente, conta o è completamente ininfluente? O conta il principio di cassa importante. Quando arrivano, quando transitano i... È molto importante. Sì. Ecco, qui l'aspetto si fa un pochino più tecnico. Se siamo in presenza di un professionista, per il professionista vale esclusivamente il pagamento, per cui se il professionista ha emesso una nota o una fattura al proprio cliente in data 20 dicembre e il cliente gliel'ha pagata a gennaio, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, anche per sapere se ha superato meno di 30.000 euro, non si considera ciò che non è stato incassato nell'anno 2015, perché ovviamente il criterio va per cassa, quindi va per cassa sia poi per determinare il reddito imponibile, ma anche per determinare la soglia di compensi per il limite di accesso. Ecco, è diverso, un pochino più complicato per un artigiano, ad esempio, laddove bisogna capire intanto che regime contabile ha adottato in passato. che ha adottato un regime contabile, ad esempio della contabilità semplificata ordinaria, in quel caso, ad esempio, un artigiano che fa servizi vale l'ultimazione del servizio. Ma siccome mi pare che il signor Fabrizio sia un professionista, il libro professionista è la cassa che conta, quindi ciò che non ha incassato nel 2015 non rileva ai fini del calcolo dei 30.000 euro. Allora, noi riceviamo naturalmente molte domande da parte dei nostri ascoltatori, alcune sono anche articolate, allora chiedo intanto a Tosoni, non dico domani che è impegnato con Telefisco, ma magari se nei prossimi giorni ci può dare in privato la sua consulenza per rispondere ai quesiti fiscali un po' più complicati dai nostri ascoltatori. Per concludere, prima di salutarla, Tosoni, allora, il minimo non lo dobbiamo più chiamare così, oggi abbiamo questo regime fiscale appunto forfettario, ammettendo che io domani mattina abbia bisogno di avviare una piccola attività di consulenza nella comunicazione, che è il mio campo, no? Però certo, so già che appunto i ricavi che avrò da questa nuova attività saranno limitati, per cui voglio optare per questo regime fiscale forfettario. Mi dica in tre punti i passi che devo fare. Deve aprire una partita IVA con un modello anagrafico che si chiama A9, che si manda in via telematica all'Agenzia delle Entrate, nella quale fa una previsione di compensi inferiore ai limiti previsti, e da quel momento lì lei ha già adottato il regime forfettario. Quindi quando poi riceverà dei compensi farà una semplice ricevuta, nessuno le farà la ritenuta d'acconto e va avanti così. Dovrà conservare le fatture di vendita, le ricevute che lei fa di vendita inteso come di prestazioni, e le fatture di acquisto, le numera progressivamente, le tiene in una cartella e buon lavoro. Alla fine dell'anno dovrà determinare il reddito con le modalità che ho detto prima, se vuole gliele ricordo. Se il mio reddito sarà esploso nel frattempo, il regime ordinario quando arriverà, quando dovrò dare comunicazione? L'anno 2017, prossimo? 2017. Intanto nel 2016 lei comunque determinerà il suo reddito, siccome è l'attività di comunicazione, l'attività professionale, dichiarando un reddito pari al 78% dell'ammontare dei compensi che avrà percepito nel 2016, cioè quelli effettivamente percepiti. E se nel 2017 riprecipiterà di nuovo il mio fatturato, nel 2018 ripasserò al forfettario, ecco, perché ce lo chiedevamo con Nicoletta a microfoni spenti. Quindi esatto, questa montagna russa si può percorrere. Devo dire, non per complicarle le cose a lei e agli ascoltatori, il dentro e fuori richiede poi qualche attenzione contabile, direi, per esempio la verifica dell'IVA, però, oppure per evitare che certi compensi che pagati in un anno non vengano dichiarati nell'anno successivo, ma soprattutto in settore di IVA, perché quando si è nel forfè non si può recuperare l'IVA, ma se io ho comprato il computer nell'anno del forfè e poi entro nel regime ordinario, semplificato, ho diritto ad esempio a recuperare i 4/5 dell'IVA. Ma se poi ritorno nel forfè devo restituire i 3/5 dell'IVA. No, però insomma abbiamo visto, conviene guadagnare tanto. Esatto, dai. Poi a prescindere diciamo dall'acquisto non del computer, indietro. In realtà abbiamo visto in questi anni di crisi che i fatturati dei piccoli imprenditori e dei liberi professionisti sono molto vulnerabili, per cui in realtà questi passaggi possono anche essere molto frequenti. Tosoni, grazie per essere stato con noi. Ci è piaciuta anche la sua chiarezza e quindi noi la richiameremo presto anche magari per altri argomenti. Si candidi come vuole. Ecco, come dire, dorma preoccupato, dottor Tosoni. Grazie, buona giornata e buon Telefisco. Grazie. Buon Telefisco per domani. E allora, cara Deborah, adesso è tempo di cambiare tema, ma voglio dare ai nostri ascoltatori alcuni buoni motivi per continuare a restare con noi, con un brevissimo sommario. Allora, parliamo di celiachia, l'intolleranza permanente al glutine. Bene, c'è un'importante novità da cui prende spunto la nostra puntata. I ricercatori stanno cercando di capire se sia possibile ridurre o azzerare il rischio di sviluppo della patologia nelle persone predisposte. Quindi, se siete celiaci e avete dei figli sotto i 5 anni d'età, iniziate a chiamare, è in corso uno studio di cui vi parleremo, e quindi 800 24 00 24. Oppure, avete il sospetto che sia il glutine il diretto responsabile di una serie di sintomi intestinali ed extraintestinali con cui vi confrontate? Dolore, gonfio addominale, stizio, diarrea, ma anche astenia, mal di testa, eczemi cutanei? Avete fatto degli esami e quali? E poi, magari non è risultato nulla. Allora, sapete che ci sono degli esami che vi permetterebbero di scoprire esattamente la natura del vostro problema? Chiamate il nostro numero verde. E infine, avete deciso spontaneamente di eliminare il glutine dalla vostra dieta. Allora, diteci che cosa vi ha spinto a prendere questa decisione e soprattutto diteci come state e cosa pensate di fare. Il nostro esperto potrebbe aiutarvi a trovare la soluzione più corretta per il vostro caso. E allora salutiamo il dottor Luca Elli, gastroenterologo dell'AIGO. L'AIGO è l'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri ed è responsabile del Centro Celiachia al Policlinico di Milano. Buongiorno dottorelli, bentornato. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Allora dottorelli, vuole aggiungere un altro spunto, arricchire il nostro sommario? Sì, la cosa veramente importante è quando, perché adesso esatto, molte persone, molti pazienti provano vari tipi di diete, tra cui anche la dieta priva di glutine. La cosa veramente importante che va stressata è che prima di farlo in effetti si consultino col proprio medico, anche perché prima di iniziare a togliere il glutine bisogna accertare se vi sia un problema o no, come ha detto lei giustamente prima, di celiachia. E bisogna ricordare che gli esami per la celiachia vanno fatti mentre il glutine lo si mangia. Quindi assolutamente prima di iniziare una dieta priva di glutine rivolgersi al proprio medico, che se lo riterrà opportuno chiederà una consulenza anche dal gastroenterologo, anche per escludere soprattutto una celiachia. Questa è in assoluto, ecco, una perché cosa, questa una vostra cosa molto importante. Scelta presa di spontanea, no? Volontà potrebbe in qualche modo confondere le carte. Ma dottorelli, partiamo dalla notizia, perché il cuore denari deve stare sull'attualità e quindi l'attualità è questa notizia di cui si discute anche sui social. I ricercatori stanno affrontando una bella sfida, stanno infatti cercando di capire, attraverso uno studio di cui parleremo tra poco, se agendo su fattori ambientali in un prossimo futuro sarà possibile evitare ai figli di genitori celiaci di diventare celiaci, quindi di sviluppare una intolleranza permanente al glutine. Ma per capire la portata di questo filone di ricerca è importante ricordare quelli che potremmo definire i fondamentali di questa malattia. Allora, iniziamo a dire che è una malattia autoimmune e che l'intolleranza nei confronti del glutine è permanente, quindi non passa. E invece io, dottorelli, le passo la parola per completare il quadro. Certo, bisogna ricordare che, come ha detto lei, è una malattia autoimmune che viene scatenata quando un soggetto che ha una predisposizione genetica ingerisce il glutine, e questa appunto, una volta che si instaura, cronicizza, nel senso che una volta sviluppata non ha attualmente, per quanto è noto, una possibilità di regressione. La si può guarire, cioè la si può, diciamo, tenere in fase quiescente, togliendo il glutine e quindi spegnendo tutto il meccanismo autoimmune. Ovviamente questa dieta deve essere attenta e poi deve essere cronica, anche perché anche se dopo quello che si è visto, dopo 10-15 anni dalla diagnosi, se un paziente si rimette a mangiare col glutine torna tutto come era prima, e quindi la dieta va continuata in maniera cronica. Possiamo paragonare il glutine come a una miccia che accende l'infiammazione? Esattamente, è proprio si dice anche così, è proprio un trigger, un fattore scatenante ambientale che dà il via a tutto il meccanismo. Quello che c'è di positivo è che, tolto questo, il meccanismo si spegne anche, certo, cosa che non esiste per altre malattie. Invece, insomma, chi ha questo, sviluppa questa malattia autoimmune, tutto sommato ha questa possibilità molto importante di spegnere il meccanismo, togliendo appunto il glutine dalla dieta. E allora io darei subito il via alle telefonate. Deborah, se sei d'accordo? Assolutamente sì, siamo pronti. Si vedo sono che già prenotati all'800 24 00 24. Andiamo a Modena, va. Dai. Stamattina cominciamo per la celiachia da Modena, il nostro monitoraggio. Andrea, benvenuto. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno Andrea. Eccoci qua. Allora, io vi racconto una mia storia. In realtà sono della provincia di Modena, Pavullo nel Prignano, una zona dell'Appennino modenese. È fondamentale questa precisazione, Andrea? Sì, perché sembra che nella nostra zona ci sia un pullulare di celiachia che sta sbocciando come i funghi, tra virgolette, ecco, non si può dire. Sì. E allora il discorso diventa questo. Proprio con la dottoressa che ci segue a Modena, mi diceva che nella nostra zona la celiachia sembra essere abbastanza, non si capisce se per fattori ambientali, appunto, come dicevate voi, che ci può essere questa analogia, e per cui insomma anche lì volevo capire dal dottore se ci può essere questa questa analogia. Questa relazione, quindi fattori, relazione. Sì, fattori ambientali e fattori genetici. Ha una domanda specifica oltre a questa, Andrea, una per il dottor Elli? Una domanda specifica è questa. Sì. Io sono 3 anni che sono a dieta ferrea, come dico io, proprio di quelle che non tocco nulla, ma neanche contaminazioni, robe varie, ma devo ancora rientrare nei valori. C'ho sempre un valore che mi scorre attorno al 15, una roba del genere del marcatore, e non so più che cosa fare. Ma Andrea, lei ha ricevuto una diagnosi di celiachia o si assolutamente, è... sì, con tanto di gastroscopia, tutta okay. regolare, sono... Quindi sembra che la dieta non funzioni nel caso di Andrea, che ci racconta, dottor Elli, che nella sua zona ci sono molti casi diagnosticati e quindi metteva questo dato in relazione ai fattori ambientali che sicuramente pesano, no, nello sviluppo di questa malattia. Nello sviluppo della malattia appunto giocano sia fattori genetici che fattori ambientali. Quello che si vede, ci sono diverse zone sia in Italia o stati in cui c'è una prevalenza anomala in senso più alta del normale o di quello che ci si aspetta. Adesso non so nello specifico se il paese da dove ci chiama rientra in questa tipologia di casistiche, però quello che si è visto è che solitamente quando succede ciò non è tanto il fattore ambientale che gioca un ruolo, ma il fattore genetico. Per esempio in Irlanda c'è una prevalenza molto alta di celiachia, molto probabilmente perché essendo avrà un antenato irlandese, il nostro amico senso, modenese. Può essere, nel senso che però essendo o come alcune valli chiuse, quindi avendo avuto probabilmente una genetica stabile, chiamiamola certo. così, o una scarsa rimescolamento dei geni, per dirlo in maniera molto semplice, probabilmente si sono selezionati un pattern genetico in quella popolazione che favorisce la celiachia o lo sviluppo della celiachia. Ma il nostro ascoltatore ci aggiungeva anche un altro dettaglio importante: è a dieta strettissima eppure sembra che la dieta non produca gli effetti desiderati. Come mai? Ma questo va visto un po', a dir la verità, caso per caso, nel senso che da quello che ho capito lui ha ricevuto una diagnosi di celiachia e nonostante la dieta ha dei marker, penso che lui intendesse gli anticorpi nel sangue, ancora lievemente alterati. Bisogna vedere caso per caso, nel senso che questi marker una volta che uno fa la dieta funzionano un po' peggio di quando uno invece è a dieta libera e quindi bisogna valutare un po' il paziente nel suo complesso, se ci sono stati dei miglioramenti clinici in generale, eventualmente in questi casi si ripete anche la biopsia per vedere se è migliorata la mucosa del piccolo intestino, che solitamente è atrofica nei celiaci, e quindi si valutano vari tipi di risposta. La singola alterazione che permane non ha di per sé isolatamente un significato particolare. Allora, avremo in linea con noi Antonio da Salerno, ma è tempo di andare a sentire i mercati, quindi 800 24 0024, se avete un'intolleranza permanente al glutine, diteci quando l'avete scoperta, quali sono stati i segnali che vi hanno portato alla diagnosi, chiamateci se avete dei figli, ma restate con noi soprattutto se negli ultimi tempi avete la sensazione o il sospetto che farina, pane, pasta, pizza, biscotti e prodotti da forno in genere vi diano dei problemi intestinali o extraintestinali. Quindi mi riferisco ad una serie di sintomi che vanno dal gonfiore addominale alla testa pesante. Parleremo anche di sensibilità al glutine, adesso è possibile individuarla con maggiore chiarezza, e se invece di vostra iniziativa avete deciso, come anticipavamo, di consumare prodotti senza glutine, ci sono delle cose che dovete sapere. Quindi 800 24 00 24, il dottor Elli rimane con noi sino al termine della trasmissione, quindi affrettatevi a intervenire. A tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme oggi sul banco degli imputati, abbiamo messo il glutine, ci sono persone che hanno una vera e propria intolleranza permanente, sono i celiaci, il loro numero nell'ultimo quarto di secolo è aumentato di 5 volte, soprattutto in età pediatrica, ma la celiachia può essere diagnosticata anche in età adulta. Ne stiamo parlando con il dottor Elli, che è responsabile del centro celiachia al Policlinico di Milano. Se volete intervenire, 800 24 00 24, un'occasione anche per parlare di sensibilità al glutine e per valutare la scelta di coloro che decidono autonomamente di eliminare il glutine dalla propria dieta, magari pensando di renderla più salutare o per perdere qualche chilo. Ci sono delle indicazioni e delle raccomandazioni che mi piacerebbe che voi sapeste. Ma allora, dottorelli, torniamo a noi. L'intolleranza al glutine si può manifestare a qualsiasi età, anche in età avanzata, e questo succede nonostante il glutine venga generalmente introdotto nell'alimentazione a partire dal primo anno di vita. Insomma, possono passare degli anni perché il glutine inizia a dare problemi. Allora, che cosa può favorire il manifestarsi della malattia? È in questo caso che si fa riferimento a quelli che voi chiamate fattori ambientali? Ma è come dice lei, nel senso, una volta la malattia celiaca si può sviluppare a qualsiasi età, una volta si pensava che fosse solo un problema pediatrico, adesso si è scoperto che, nonostante appunto uno inserisca nello svezzamento il glutine abbastanza presto, poi la malattia può svilupparsi anche a 30, 40, 50 anni. Che cosa differenzi coloro che la sviluppano precocemente o più tardivamente? A dire la verità non si sa, perché tutti hanno la medesima predisposizione genetica. Sicuramente oltre al glutine ci sono degli altri fattori ambientali che hanno un ruolo, ma assolutamente attualmente non si conoscono. Potrebbero essere delle infezioni virali oppure anche degli altri geni di cui non si sanno, non sono ancora stati scoperti. Alcuni, è stata focalizzata l'attenzione ultimamente su alcuni inquinanti ambientali, però sono tutte supposizioni attualmente, non si conosce ancora la ragione perché ci sia questa differenza di insorgenza nelle diverse età. Ma sicuramente l'attenzione si è concentrata, mi sembra, dottora Elli, sulle alterazioni della flora batterica intestinale. Attualmente sì, per diversi anni si sono provati per esempio diversi tipi di svezzamento, perché appunto chi, le mamme o chi è in famiglia ha un genitore, un fratello celiaco, ha, se ha ereditato la genetica, un maggior rischio di sviluppare la celiachia, per cui un problema dei medici, soprattutto dei pediatri, è stato sempre quello di in che modo si può un po' diminuire questo rischio. Allora si è provato diversi tipi di svezzamento, diversi tipi di allattamento. Ultimamente, a dir la verità, proprio un ultimo articolo ha smentito molte cose che si credevano, e quindi si è tornati un po' al punto di partenza, che non cioè, si sa bene in che modo svezzare. Quindi qual è la raccomandazione? La raccomandazione attualmente è di svezzarlo in maniera tra virgolette classica, cioè di inserirlo attorno tra il quarto e il sesto mese. È preferibile l'allattamento al seno, ma ciò si è visto che non è un vero fattore di protezione per lo sviluppo della celiachia, come si pensava un tempo. Per cui si è un po' deviata l'attenzione su quello che viene chiamato il microbiota, cioè tutti quei batteri che colonizzano anche l'intestino e che vivono di fatto con noi, per vedere se invece dei cambiamenti di questa flora intestinale, che noi ereditiamo anche fin dal momento del parto, possono un po' aumentare o portare allo sviluppo della celiachia. Questo perché tutto sommato in futuro sarà possibile o verosimile anche modificare questa flora in termini di batteri, di quantità, certo, di tipo, e quindi magari ridurre un po' il rischio, aiutare questi bambini a non sviluppare la celiachia. E per approfondire proprio questo argomento è stato avviato lo studio di cui abbiamo detto in apertura, che è coordinato da Alessio Fasano, giusto, del General, sì, Hospital di Boston, che aveva individuato, anche descritto, la sensibilità al glutine, di cui parleremo tra poco. Allora, lo studio però coinvolgerà anche alcuni centri italiani. Ci vuole raccontare? Esattamente, uno studio molto ambizioso coordinato dal professor Fasano di Boston, che coinvolge anche noi, il centro di Bari, il centro di Salerno e anche i colleghi di Roma, e che durerà parecchi anni, durerà almeno 5 anni, e in Italia, tra i centri italiani e i centri degli Stati Uniti, dovranno essere arruolati circa 500 bambini che hanno come caratteristica avere un familiare di primo grado celiaco e non essere ancora vezzati, cioè non aver ancora introdotto le pappine, essere ancora in una fase di allattamento. Quindi bebè, diciamo 500 bebè. Esatto, ecco. Che verranno seguiti per 5 anni analizzando in maniera scadenzata e vedendo un po' quali, se prendono terapie antibiotiche, se, che tipo di terapie fanno, se hanno delle gastroenteriti, analizzando le feci per vedere appunto il tipo di microbiota e vedere se alcuni cambiamenti di questo microbiota precedono lo sviluppo della celiachia. È uno studio molto che durerà parecchio tempo, perché ovviamente bisogna in teoria dare il tempo a questi bambini di diventare celiaci e poi vedere se prima che lo diventino ci sono dei cambiamenti della flora intestinale ed eventualmente se questi cambiamenti sono stati causati da terapie antibiotiche, da gastroenteriti, eccetera. Questo poi per un futuro, diciamo, ulteriore, prevenire questi fattori e quindi prevenire l'insorgenza di una celiachia. Allora, si può ancora partecipare allo studio? State ancora arruolando bebè, certo, vero? E anche future mamme celiache? E anche future mamme vengono arruolati sia bebè, cioè appunto appena nati, neonati, sia le mamme che sono in dolce attesa e che quindi che hanno tra i loro, tra o il papà o già un figlio e quindi un primo figlio con una celiachia, possono arruolarsi, entrare in questo studio e aiutarci per capire meglio cosa succede. Ecco, praticamente lo snodo sarà comprendere se sia la malattia ad alterare il microbiota oppure se siano delle alterazioni del microbiota a favorire la malattia. Precisamente. L'ho detto un po' in modo spicciolo, ma mi sembra l'ha che... L'ha detta perfettamente. Allora, per saperne di più potete andare sulla pagina del nostro programma dove mettiamo il link. Lo studio tra l'altro richiede, dottorelli, un prelievo di sangue. Sì, perché adesso tra l'altro rientra anche un po' in quello che si fa routinariamente per capire se il neonato ha la predisposizione genetica, sì. Nel senso che se non ha una predisposizione genetica per la celiachia già sappiamo già che non la sviluppa e anche in futuro non la svilupperà, quindi questo di partenza e poi dei prelievi delle feci del bambino seriati in questi 5 anni e anche una volta della mamma, perché appunto come abbiamo detto la flora intestinale la si eredita fin dall'inizio dalla mamma. E quindi ci serve anche capire qual è il tipo di flora delle mamme. E certo. Allora, abbiamo detto che il professor Fasano è il coordinatore dello studio, ma ricordiamo che è stato anche il primo a definire le caratteristiche della sensibilità al glutine, di cui parleremo tra poco, ma vorrei dare rapidamente, posso la linea veloce? Sì, dai. A Stefania, buongiorno da Udine. C'è Andrea che adesso con questa barba mi... È un po', autoritario. Un po'. Sì. Allora, Stefania, buongiorno. Ho sfidato la barba di Andrea per lei. Buongiorno, grazie. Vada. Sì, ecco, brevemente la mia storia. Il tutto è partito, diciamo, 8 mesi dopo il parto, quindi siamo anche abbastanza nel tema. Ho iniziato a dimagrire molto velocemente, ho perso circa 3 mesi e avevo veramente una profonda astenia e avevo, diciamo, a livello di esami, l'unico dato disponibile che era questo malassorbimento di grassi. Ho fatto diversi esami a livello di test per la celiachia, ma è risultato solo un unico valore, però un po' dubbio. Mi hanno proposto lo stesso di fare questa dieta senza glutine per un paio di mesi e diciamo che sta rientrando piano piano tutto. Volevo chiedere appunto se c'era una correlazione, se poteva trattarsi di celiachia oppure di una semplice sensibilità al glutine o cos'altro. Allora, il dottorelli, immagino, ha sentito tutto, dottorelli? Sì, ho sentito. Allora tutto. Adesso le faccio sentire le informazioni sul traffico e poi pronta per rispondere a Stefania da Udine, ad Antonio da Salerno, ad Andrea da Piacenza e 800 24 00 24 aspettiamo le vostre domande ma anche le vostre storie. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme, stiamo parlando di glutine, abbiamo affrontato il tema della celiachia, intolleranza permanente al glutine, vi abbiamo informato di uno studio che è in corso, a cui ci si può ancora arruolare, dedicato naturalmente ai bambini, che sono ancora, possiamo considerare piccini, quindi ancora prima dello svezzamento, alle future mamme, se sono celiache, trovate tutte le informazioni sulla nostra pagina, ma vogliamo anche parlare di sensibilità al glutine, esattamente esattamente che cos'è e come si arriva alla diagnosi, solo per esclusione, e della dieta gluten free, ma è sempre più di moda, è arrivata dall'America, ci sono persone che decidono di togliere autonomamente il glutine dalla loro dieta per rendere il loro stile alimentare, molti credono, più salutare. Ma è davvero così e che cosa si rischia? Allora, dottorelli, iniziamo a rispondere, anzi iniziamo, tocca a lei dare delle indicazioni alla nostra ascoltatrice che dopo la gravidanza ha fatto gli esami, astenia, ha tolto il glutine, adesso si chiede: ma è stata la scelta giusta? Ci potrebbe essere una relazione? Ma quello che ha raccontato la signora è un quadro che può essere compatibile con la celiachia, questa stanchezza, soprattutto dopo un evento che è un po' stressante, che può essere il parto, eccetera, per cui tutto rientra in una celiachia. Il problema che vedo un po', dobbiamo ricordare che lo standard diagnostico per la celiachia nell'adulto attualmente è ancora la biopsia duodenale, quindi in casi dubbi si ricorre sempre alla biopsia del duodeno, che mi pare che non sia stata fatta nel caso della signora di Udine. Per cui forse in questo caso, prima di iniziare una dieta, bisogna accertarsi molto bene del... Però, dottorelli, allora, io faccio gli esami, li vedo un po' mossi, e per confermarli devo fare la biopsia. Allora mi verrebbe da dire: beh, senti, tanto io sto un po' senza glutine, poi si vede, perché insomma affrontare una biopsia magari è un po' impegnativo, ecco. È vero, la biopsia e la gastroscopia non è un esame molto amato, però il mettersi a dieta, soprattutto quando c'è un dubbio, rende tutto molto più difficile, perché poi scompaiono degli anticorpi, scompare eventualmente anche la lesione intestinale, quindi poi diventa difficile fare diagnosi. Sì. Dottorelli, invece mi ci vuole aiutare a capire la differenza tra celiachia e sensibilità al glutine? La celiachia è, come abbiamo detto prima, una malattia autoimmune e quindi che ha un danno riscontrabile dal punto di vista patologico, che è l'atrofia del piccolo intestino. Quindi noi facciamo la gastroscopia, facciamo la biopsia nel duodeno e vediamo che questo è danneggiato, c'è un'alterazione. Nella sensibilità al glutine tutto ciò non c'è, non vi è nessun tipo di alterazione patologica rilevabile, anche degli esami del sangue. Quello che si è visto è una relazione tra l'ingestione di alimenti contenenti il glutine e l'insorgenza di alcuni sintomi, senza che vi sia però un meccanismo autoimmune, un'infiammazione e tutte quelle cose che noi vediamo nella celiachia. Per anni però la diagnosi della sensibilità al glutine non celiaca è stata una diagnosi ad esclusione, quindi si toglieva il glutine e si cercava di un po' capire e valutare la salute e il benessere della persona. Oggi avete la possibilità di individuarla con maggiore precisione o lo avrete nel prossimo futuro? Ma quello che è stato e che sta diventando appunto la diagnosi della sensibilità al glutine è il tentare di trasformare la diagnosi passiva, tra virgolette. Come diceva lei, si escludevano tutte le patologie, si vedeva che c'era questa relazione tra l'ingestione riportata dal paziente, tra l'ingestione di glutine e l'insorgenza di alcuni sintomi, quindi si proponeva questo tipo di diagnosi in maniera, tra virgolette, passiva. Adesso, per esempio, anche in farmacia è disponibile un kit che cerca un po' di trasformare questa diagnosi passiva in attiva, cioè viene dato del glutine nascosto in delle capsule senza sapere il paziente se sta prendendo il glutine o del placebo, e si vede se in maniera assolutamente inconscia vi è un'insorgenza di sintomi nel momento in cui il paziente di nascosto prende il glutine. La ricerca sta andando avanti, perché quello che si vorrebbe avere nel prossimo futuro invece è un esame del sangue, un biomarcatore specifico di, come per esempio gli anticorpi della celiachia, che ci possa permettere di fare una diagnosi più efficace, più efficiente ed in tempi più brevi. Ma quindi, dottorelli, sì, tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno, soprattutto donne, perché la sensibilità al glutine è più frequente nella popolazione femminile, è corretto? Sì. Allora, sì. Manifestano improvvisamente questa serie di segnali, no? Gonfiore addominale, mal di testa, stanchezza, un po' di problemi cutanei, eruzioni, eccetera. Qual è il suo consiglio? Il mio consiglio è: se la paziente vede che tutti questi sintomi vengono peggiorati o insorgono dopo aver mangiato qualcosa contenente glutine, di prima escludere che ci sia una celiachia prima di fare qualsiasi cosa, quindi fare gli esami del sangue per la celiachia e poi sulla base di quegli esiti capire assieme anche al medico se è necessaria la gastroscopia o meno, escludere anche un'allergia alla, alla glutine, anche, perché esistono anche delle reazioni dovute a delle allergie, e se tutto ciò risultasse negativo, cioè non c'è né una celiachia né un'allergia al glutine, allora discutere col proprio medico se non è il caso di provare una dieta priva di glutine e vedere se questa migliora i sintomi. Una dieta priva di glutine che è una opzione temporanea, dottor Elli. In questi soggetti è un'opzione temporanea, non come nella celiachia che è. Si può tornare a consumare glutine, è questo l'obiettivo? Anzi, l'obiettivo è esattamente questo, di usare la dieta priva di glutine come una terapia on demand. Cioè, quando il paziente ha questi sintomi, inizia una dieta priva di glutine, vedere se ne trae beneficio. Dopodiché la si prolunga solitamente per 6 mesi, 3-6 agli 8 mesi, e poi provare a reintrodurlo. Nel caso reinsorgessero i sintomi dopo un periodo di benessere che può essere variabile, allora rifare un periodo di dieta priva di glutine, usandolo come una terapia al bisogno. Ecco. Allora, abbiamo Antonio che ci chiama da Salerno, a cui chiedo di essere rapidissimo, mentre Andrea, a tutti gli ascoltatori chiediamo di scriverci, gireremo naturalmente le vostre richieste al dottor Elli. Antonio, rapidissimo, abbiamo un minuto. Ciao, buongiorno. A tutti. No, la mia domanda penso che già c'è stata la risposta. Bene. Io ho una figlia che è celiaca, un figlio che è predisposto. Allora volevo capire se c'era qualcosa per non prevenire questa celiachia, diciamo. Allora, stanno lavorando per lei, Antonio. In fondo potremmo concludere così, dottor Elli, la nostra puntata, no? Lavori in corso. Non c'è, speriamo che ci siano novità grazie a questo studio. Dottor Elli, noi la ringraziamo. Grazie. Per essere stato con noi, per la sua chiarezza. Se i nostri ascoltatori vogliono continuare a scriverci, a cuoredenari@radio24.it. I nostri sportelli pomeridiani sono sempre aperti, anche nel mattino naturalmente, però ci siamo. Grazie. Grazie a tutti, grazie a voi. Buona giornata. E quindi ricordate che sulla pagina del nostro programma trovate anche le indicazioni per saperne di più di questo studio da cui ha preso spunto la seconda parte di Cuore Denari. Noi torniamo domani, anzi ti lascio da sola, mi raccomando, trattami bene gli ascoltatori e soprattutto che voi ascoltatori, trattatemi bene la Nicoletta da sola, poi ci riaccoppiamo di nuovo venerdì. Buona giornata a tutti. Domani.